Gianluca Umiliati, siamo nella fumettoteca di Forlì, Alessandro Calegati Calle, il giro del mondo dantesco in 80 fumetti. Allora, Gianluca, raccontaci un po' di questa bella iniziativa. L'idea parte da questa proprio innovativa proposta, finora non è mai stata fatta. Hanno sempre presentato un po' il Dante in tutte le sue vesti fumettistiche. Nell'ambito fumettistico non è la prima volta che lo si presenta, anzi, ci sono stati anche dei concorsi negli anni passati per i ragazzi. Però fare proprio una mappatura, in effetti noi abbiamo realizzato una mappa nel sito, poi dal dentro vedere e visitarla, viaggiare la mappa è interattivo, presenterà testati, vari fumetti che abbiamo rintracciato e dicevo appunto che è la prima volta che si realizza una proposta similare, per cui alla fine si può senza ombra di dubbio dire che è innovativa ed esclusiva, ma non solo a livello nazionale, anche internazionale. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei contatti per il mondo, questo qui è stato realizzato negli anni sia prima come fanzinoteca e poi come fumettoteca, per cui dal Giappone abbiamo avuto un aggancio con il nostro caro amico Gianni, ci ha spiegato e ci ha dato tutti i dati relativi alle pubblicazioni su Dante in giapponese e in Corea. E così come dal Brasile, un'altra persona con cui eravamo già in contatto ci ha spiegato e ci ha mandato il materiale brasiliano, dalla Germania e anche dall'America abbiamo chiesto un supporto da parte della professoressa di una università dell'Oregon. In Italia ovviamente abbiamo 4-5 esperti di fumetto che ci hanno supportato molto bene. Direi che il lavoro, dal mio punto di vista, sebbene sia di parte, si presenta non valido, ma più che valido, visto e considerato che per la prima volta ci sono fumetti che non sono veramente mai stati presentati. Quindi può essere anche proprio una possibilità di fare una ricerca e uno studio per gli esperti, diciamo, per quelli assolutamente appassionati. Sì, in effetti la bellezza di tutto questo è che sebbene si era programmato anche in contemporanea con questa proposta online una mostra espositiva consultabile in sede e vediamo se dopo il 6 ci sarà questa possibilità di poter aprire la sede al pubblico. Quindi noi abbiamo anche, non tutti ovviamente, però il più del 50% dei prodotti che presentiamo, inoltre poi ne abbiamo altri, che in realtà il Giro del Mondo dantesco in 80 fumetti ovviamente si ricollega al discorso del Giro del Mondo in 80 giorni, ma noi di fumetti ne abbiamo trovati centinaia. Abbiamo fatto una selezione, li abbiamo tagliati uno per uno, guardati bene, e alla fine abbiamo scelto quelli che ritenevamo per un motivo o per un altro adeguati. E per la prima volta ci sono dei personaggi fumettistici che o incontrano Dante, come nel caso dei Fantastici 4, uno si meraviglia, però c'è una storia dove i Fantastici 4 incontrano Dante che li accompagna lungo un percorso che non è quello infernale. Oppure si trovano immersi nel famoso inferno dantesco, come nel caso di Star Trek, gli X-Men, cioè per citare gli americani, ma abbiamo anche gli italiani, come Dampir, oppure tantissimi altri personaggi, ovviamente Geppo, il nostro personaggio Diavoletto. diabolico, il piccolo diavoletto, anche lui ha avuto modo di vivere una pseudo Divina Commedia. Sì, poi abbiamo Il Dylan progetto. Dog, Cattivic, Martin Ah Mister, anche sì, Martin ecco, Mister. Cattivic, Dago, tantissimi personaggi italiani, anche non italiani, Dago non sarebbe italiano. Quindi alla fine c'è veramente una scelta notevole, peraltro come dicevo prima, muovendosi a livello mondiale abbiamo la storia di Dante in cinese e i vari fumetti del Giappone, quelli di Gonagai, che ha avuto un grandissimo successo tradotto in tutte le lingue, oppure persino dalla Russia o dall'Indonesia e poi l'Europa. Ovviamente il cavallo di battaglia è l'Italia, perché Dante è molto, cioè è proprio italiano, per cui alla fine hanno in Italia ci hanno, tra virgolette, giocato molto con il personaggio piuttosto che gli spazi e i luoghi del personaggio. Gianluca presenta come un censimento, una raccolta di fumetti su questo tema e mi domandavo se in futuro, al di là dell'evento di quest'anno, intendiate continuare questa ricerca. In effetti il discorso si lega molto al fatto di poter riproporre anche ad altri enti l'iniziativa. vedere se più avanti, anche se non riusciremo a aprire noi come attività al pubblico, durante quest'anno, l'anno dantesco, ci siano delle occasioni di presentarlo in altri contesti, in modo da dare anche il materiale cartaceo di supporto da poter valutare e visionare. Però in effetti è già comunque da anni che questa tematica dantesca ha sempre interessato in particolar modo il sottoscritto. Non per niente io nei primi anni 90 realizzai delle strisce comiche dedicate a Dante. Allo stesso modo nei primi anni 2000 cercai di partecipare a quel concorso che citavo prima, un personaggio dantesco, cioè un Dante caricaturalizzato. Peraltro è anche molto interessante, almeno dal nostro punto di vista, perché questa ricerca è divisa in quattro settori per riuscire a definire bene, diciamo, le linee guida di proposta, ed effettivamente il primo è dedicato a Dante nel fumetto inteso come la vita di Dante, il secondo è dedicato alla Divina Commedia come viene riportata, quindi soltanto trasformata nel fumetto, nel terzo invece ci sono le parodie di Dante e le parodie della Divina Commedia. In questo caso cambiano molto i registri, in pratica molte volte si vede Caronte che viene presentato nella parodia in una maniera veramente ridicola. E il quarto sono le trasposizioni, come dicevo prima, Star Trek, il doppiaggio di Star Trek si trova immerso nell'interno dantesco, però non c'è Dante, e quindi è una trasposizione di questi personaggi che si muovono in questo contesto dantesco anche se non avrebbero potuto. Voi intendete anche fare delle iniziative? Dal 1 aprile al 30 sarà attiva online di sicuro, fisicamente se avremo la possibilità, ma precedentemente a questa abbiamo aderito come l'anno scorso al Dante Day, che sarebbe la giornata dedicata al Dante. È stata istituzionalizzata l'anno scorso dal Ministro della Cultura e quest'anno è ritornata, e dal 25, che sarebbe appunto il Dante Day, dal 25 marzo al 31 abbiamo proposto anche in questo caso un altro evento online. Questo si chiamava Dante 1 100.000 volti ed era legato molto allo slogan di 100.000 rivoluzioni, e anche in questo caso abbiamo avuto modo di constatare, come già stiamo ricevendo dei messaggi, dei contatti tramite via telefono, sms o mail per l'evento attuale, anche nel precedente professori degli istituti superiori ci contattano, per cui alla fine, come allora e come adesso, c'è solo questa occasione di entrare in rete. Allora noi diamo anche l'opportunità per chi lo desidera di fare direttamente dei video incontri, in modo da poter rispondere a delle domande se gli alunni e gli studenti hanno qualche cosa da chiedere o da approfondire.